Capitolo 113. La vendetta di Oreste. Oreste fu allevato con grande affetto dai suoi nonni Tindario e Leda e ancora fanciullo accompagnò Clitennestra e Ifigenia in Aulide. Ma taluni dicono che Clitennestra lo mandò a Focide poco dopo il ritorno di Agamennone e altre che la sera del delitto Oreste, che aveva 10 anni, fu salvato dal nobile cuore della sua nutrice Arsinoe, o Laodamia o Gilissa, la quale, fatto coricare il proprio figlio nel letto del principino, lasciò che Egisto lo uccidesse in luogo di Oreste. Altri ancora dicono che sua sorella Elettra, con l'aiuto del vecchio tutore di Agamennone, avvolse Oreste in un manto ricamato con effigi di bestie feroci che essa stessa aveva intessuto e lo fece segretamente uscire dalla città. Dopo essere rimasto nascosto per qualche tempo tra i pastori presso il fiume Tano, che segna il confine tra l'Argolide e la Laconia, il tutore riuscì a raggiungere con Oreste la reggia di Strofio, fedele alleato della casa di Atreo, che regnava a Crisa ai piedi del Parnasso. Strofio aveva sposato la sorella di Agamennone, Astiochea o Anassibia o Cindragora. A Crisa Oreste trovò un carissimo compagno di giochi, Pilade, il figlio di Strofio, che era di poco più giovane di lui, e la loro amicizia divenne proverbiale. Dal vecchio tutore egli seppe che il corpo di Agamennone era stato gettato fuori del palazzo e frettolosamente sepolto da Clitennestra senza libagioni né rami di mirto, e che al popolo di Micene era stato vietato di assistere alle esequie, e la notizia lo addolorò profondamente. Egisto regnò a Micene per 7 anni, correndo sul cocchio di Agamennone, sedendo sul suo trono, reggendo il suo scettro, indossando il suo manto, dormendo nel suo letto e sperperando le sue ricchezze. Tuttavia, nonostante tutti questi attributi della regalità, egli era poco più che lo schiavo di Clitennestra, la vera padrona di Micene. Quando era ubriaco, Egisto gettava pietre sulla tomba di Agamennone e gridava: «Vieni, Oreste, vieni a prenderti quel che ti spetta!» Ma in verità egli viveva nel terrore della vendetta. Benché circondato da un fedelissimo corpo di guardia, nemmeno per una sola notte riuscì a dormire di un sonno tranquillo e offrì un generoso compenso in oro a chi avesse ucciso Oreste. Elettra era stata promessa in sposa al cugino Castore di Sparta, prima che egli morisse e divenisse un semidio. Benché i migliori principi di Grecia chiedessero la sua mano, Egisto temeva che essa generasse un figlio disposto a vendicare la morte di Agamennone e annunciò dunque che nessun pretendente sarebbe stato accolto. Egli avrebbe volentieri eliminato Elettra per paura che si giacesse in segreto con uno degli ufficiali di palazzo e gli generasse un bastardo, ma Clitennestra, che da parte sua non provava rimorsi per l'assassinio di Agamennone e non voleva attirare su di sé l'ira degli dèi, gli proibì di farlo. Concesse tuttavia che Elettra sposasse un contadino miceneo, e questi, che aveva paura di Oreste e inoltre era casto per natura, non consumò mai le nozze. Negletta dunque da Clitennestra, che aveva ora generato a Egisto 3 figli, Erigone, Alete e una seconda Elena, Elettra viveva in disdicevole miseria ed era sempre tenuta sotto sorveglianza. Alla fine si decise che, se essa non avesse accettato la propria sorte, come aveva fatto sua sorella Crisotemi, cessando dal chiamare pubblicamente Egisto e Clitennestra adulteri assassini, sarebbe stata relegata in qualche remota città e chiusa in una segreta dove non penetrasse la luce del sole. Ma Elettra disprezzava Crisotemi per la sua servile obbedienza a Egisto e per la sua slealtà verso il padre defunto, e segretamente inviava frequenti messaggi a Oreste per ricordargli la vendetta che si aspettava da lui. Oreste, ormai adulto, si recò all'oracolo di Delfi per sapere se egli doveva annientare gli assassini di suo padre. La risposta di Apollo, autorizzata da Zeus, fu che se egli avesse trascurato di vendicare la morte di Agamennone, sarebbe stato messo al bando dalla società e afflitto da una lebbra che, divorando la sua carne, ne avrebbe fatto germogliare muffa bianca. L'oracolo gli raccomandò inoltre di versare libagioni sulla tomba di Agamennone, di deporvi una ciocca dei suoi capelli e, senza l'aiuto di armati, di infliggere astutamente agli assassini la meritata punizione. Al tempo stesso la Pizia gli ricordò che le Erinni non perdonano facilmente un matricidio e donò allora a Oreste, in nome di Apollo, un arco di corno col quale respingere i loro attacchi se fossero divenuti insopportabili. dopo aver eseguito i suoi ordini, egli doveva tornare di nuovo a Delfi, dove Apollo l'avrebbe protetto. Trascorsi 8 anni, o secondo altri trascorsi 20 anni, Oreste ritornò segretamente a Micene, passando da Atene, ben deciso a uccidere sia Egisto sia sua madre. Un mattino, con Pilade al fianco, visitò la tomba di Agamennone e colà, recisasi una ciocca di capelli, invocò Ermete Infernale, patrono della paternità. Quando vide avvicinarsi un gruppo di schiave, lacere e scarmigliate in segno di lutto, Oreste si rifugiò in un vicino boschetto e lì nascosto rimase a osservare. Ora, la notte precedente, Clitennestra aveva sognato di dare alla luce un serpente che essa avvolgeva nelle fasce e allattava. All'improvviso gridò nel sonno e mise in allarme l'intero palazzo, dicendo che il serpente aveva succhiato sangue dal suo seno assieme al latte. Il parere degli indovini da lei interrogati fu che Clitennestra era in corsa nell'ira del defunto e quelle schiave, vestite a lutto, venivano in nome della regina a versare libagioni sulla tomba di Agamennone con la speranza di placarne l'ombra. Elettra, che si trovava tra di loro, versò libagioni in suo nome e non in nome della madre. Innalzò preghiere per implorare vendetta da Agamennone e non perdono. E supplicò Ermete di intercedere per lei presso la madre terra e gli dei inferi. Avendo notato la ciocca di capelli biondi sulla tomba, pensò che poteva appartenere soltanto a Oreste, sia perché quei capelli erano simili ai suoi per colore e finezza, sia perché nessuno avrebbe osato fare una simile offerta al morto re. Incerta tra il dubbio e la speranza, Elettra misurò il proprio piede con le impronte che Oreste aveva lasciato nel terreno argilloso presso la tomba, e già le pareva di vedere in esse qualcosa di familiare allorché Oreste emerse dal suo nascondiglio, le provò che la ciocca di capelli apparteneva a lui e infine le mostrò il manto nel quale era stato avvolto per fuggire da Micene. Elettra lo accolse con gioia e insieme invocarono il loro avo Zeus padre. Gli ricordarono che Agamennone gli aveva reso grandi onori e che, se la casa di Atreo si fosse estinta, nessuno a Micene gli avrebbe offerto le consuete ecatombi, poiché Egisto onorava altri dei. Quando le schiave riferirono a Oreste il sogno di Clitennestra, egli subito si identificò col serpente e dichiarò che in verità si preparava a recitare la parte di un insidioso rettile succhiando il sangue dell'indegna madre. Poi ordinò a Elettra di ritornare nel palazzo e di non dire nulla a Clitennestra del loro incontro. Egli e Pilade l'avrebbero seguita dopo qualche ora, chiedendo ospitalità ai cancelli come stranieri e supplici, fingendo d'essere focesi e parlando il dialetto parnassio. Se il guardiano si fosse rifiutato di accoglierli, tutta la città avrebbe biasimato l'inospitale Egisto. Se invece li avesse fatti entrare, sarebbero riusciti senza dubbio a vendicare l'ombra di Agamennone. Oreste dunque bussò alla porta del palazzo e chiese del padrone o della padrona di quella casa. Clitennestra in persona gli andò incontro, ma non riconobbe in lui il figlio, e li finse di essere giunto da Daulide, portando tristi notizie da parte di Strofio, che aveva per caso incontrato lungo il cammino. Oreste era morto, e le sue ceneri chiuse in un'urna di bronzo. Strofio desiderava sapere se doveva mandare quest'urna a Micene o seppellirla a Crisa. Clitennestra subito accolse Oreste e lo fece entrare nel palazzo. Celando la propria gioia alle ancelle, mandò la vecchia nutrice di Oreste, Egirissa, a chiamare Egisto, che si trovava in un vicino tempio. Ma Egirissa riconobbe Oreste e, mutando il messaggio di Clitennestra, disse a Egisto che egli poteva venire solo e disarmato ad accogliere chi portava liete novelle. Il suo nemico era morto. Senza alcun sospetto, Egisto entrò nel palazzo dove, creando maggior confusione, era giunto Pilade con un'urna di bronzo. Egli disse a Clitennestra che quell'urna conteneva le ceneri di Oreste. Strofio aveva deciso di inviarle a Micene. Ciò parve una conferma della notizia precedente ed Egisto non ebbe più timori. Oreste dunque, senza difficoltà, poté estrarre la spada e trafiggerlo. Clitennestra allora riconobbe il figlio e cercò di intenerire il suo cuore, scoprendosi il petto e facendo appello al suo dovere filiale. Oreste tuttavia la decapitò con un solo colpo della stessa spada e la regina cadde accanto al cadavere del suo amante. Ritto dinanzi ai due morti, Oreste si rivolse ai servi del palazzo e, reggendo alta tra le mani la rete insanguinata che aveva imprigionato Agamennone morente, con molta eloquenza si discolpò per l'assassinio di Clitennestra, ricordando il suo tradimento. Aggiunse che Egisto aveva subito la pena che la legge riservava agli adulteri. Non contento di aver ucciso Egisto e Clitennestra, Oreste eliminò anche Elena II, loro figlia, e Pilade scacciò i figli di Nauplio che erano accorsi in aiuto di Egisto. Taluni dicono tuttavia che questi eventi si svolsero in Argo, il terzo giorno delle feste di Era, quando stava per iniziare la processione delle vergini. Egisto aveva preparato un banchetto per le ninfe presso il pascolo dei cavalli, prima di sacrificare un toro a Era, e stava raccogliendo rami di mirto per cingersene il capo. Altri aggiungono che Elettra, imbattutasi in Oreste presso la tomba di Agamennone, non volle dapprima credere che egli fosse suo fratello, benché Oreste ne mostrasse la ciocca di capelli e il manto ricamato. Ma infine una cicatrice sulla sua fronte la convinse, poiché un tempo, quando erano bambini, mentre cacciavano il cervo assieme, Oreste scivolò e cadde, ferendosi alla fronte contro una pietra aguzza. Obbedendo agli ordini che Elettra gli aveva sussurrato, Oreste si avvicinò tosto all'altare, dove si stava sgozzando il toro, e mentre Egisto ne esaminava le viscere, gli mozzò il capo con l'ascia usata per il sacrificio. Frattanto Elettra fece uscire Clitennestra dal palazzo con uno stratagemma. Le disse cioè che 10 giorni prima essa aveva dato alla luce un bimbo, figlio del suo rozzo marito, contadino, e quando Clitennestra, ansiosa di vedere il suo primo nipote, giunse alla capanna, Oreste, che la attendeva nascosto dietro l'uscio, la uccise senza pietà. Altri ancora, pur ammettendo che l'assassinio ebbe luogo ad Argo, dicono che Clitennestra mandò Crisotemi alla tomba di Agamennone per versarvi libagioni. Essa aveva infatti sognato che Agamennone, tornato in vita, strappava lo scettro dalle mani di Egisto e lo piantava così solidamente nel suolo che il legno germogliava e produceva rami che coprivano con la loro ombra l'intera terra di Micene. Secondo questa versione, Egisto e Clitennestra furono tratti in inganno dalla notizia che Oreste era stato ucciso mentre correva in una gara di cocchi ai giochi pitici, e Oreste non mostrò a Elettra la ciocca di capelli o il manto o la cicatrice per convincerla della sua identità, bensì il suggello di Agamennone inciso in un frammento della spalla d'avorio di Pelope. Altri infine negano che Oreste abbia ucciso Clitennestra con le proprie mani e affermano che la consegnò ai giudici, i quali la condannarono a morte. E sua unica colpa, seppure si può chiamare colpa, fu di non aver interceduto in favore della madre. Questo è un mito importante con molte varianti. La religione olimpica fu un compromesso tra il culto matriarcale preellenico e il culto patriarcale ellenico. La famiglia divina comprendeva all'inizio 6 dei e 6 dee. Si mantenne un equilibrio instabile di forze finché Atena nacque dalla testa di Zeus e Dioniso, nato dalla sua coscia, prese il posto di Estia al concilio degli dei. In seguito fu assicurata la preponderanza maschile in ogni concilio degli dei, una situazione che si rifletté sulla terra, e ci si poteva opporre con successo alle antiche prerogative delle dee. La discendenza matrilineare era un assioma ereditato dalla religione pre-ellenica. Poiché il re era necessariamente uno straniero, che regnava soltanto in virtù del suo matrimonio con la sacerdotessa, i principi del sangue imparavano a considerare la loro madre come l'unica e vera sovrana, e il matricidio diventava così un delitto orrendo. Inoltre essi venivano istruiti nei miti dell'antica religione, secondo la quale il re sacro era stato sempre tradito dalla moglie sacerdotessa, ucciso dal successore e vendicato dal figlio, e sapevano che il figlio non puniva mai la madre adultera, poiché essa aveva agito col pieno consenso della dea. L'antichità del mito di Oreste è attestata dalla sua amicizia con Pilade, identica all'amicizia che legava Teseo e Pirito. Nella versione arcaica, egli era indubbiamente un principe focese che uccise ritualmente Egisto allo spirare dell'ottavo anno di regno e divenne il nuovo re sposando Crisotemi, figlia di Clitennestra. Altre tracce di questa versione arcaica si ritrovano in Eschilo, Sofocle ed Euripide. Egisto è ucciso durante la festa della dea della morte Era, mentre sta recidendo rami di mirto, e viene decapitato come il toro di Minosse con l'ascia sacrificale. Gilissa, che salva Oreste il montanaro, nascondendolo in un manto ricamato con effigi di animali feroci, e il tutore che si rifugia tra i pastori del fiume Tano, ci ricordano la solita leggenda del principe di sangue reale che viene avvolto in un manto, abbandonato su una montagna, alla mercé delle belve feroci e infine salvato dai pastori. In seguito il manto servirà per l'identificazione del fanciullo, come accade nel mito di Ippotoo. Il particolare di Gilissa che sostituisce il proprio figlio alla vittima regale si riferisce forse a un periodo in cui l'annuale fanciullo sostituto del re non era più un membro del clan regale. Fino a che punto dunque possiamo accettare gli elementi principali di questa storia così come ce li hanno narrati i drammaturghi attici? È improbabile che le Erinni siano state introdotte a caso nel mito che, come quello di Alcmeone e di Erifile, pare contenga un ammonimento morale contro la minima disobbedienza o il minimo insulto di un figlio nei confronti della madre. Ma è altrettanto improbabile che Oreste abbia ucciso Clitennestra. Se lo avesse fatto, Omero ne avrebbe certamente parlato. Negando a Oreste l'appellativo di simile a un dio, il poeta ricorda soltanto che Oreste uccise Egisto e che il funerale di costui fu celebrato unitamente a quello di Clitennestra. Anche la cronaca paria non accusa Oreste di matricidio. È dunque probabile che Servio abbia rispettato l'esatta versione della leggenda, e cioè Oreste, dopo aver ucciso Egisto, si limitò a consegnare Clitennestra ai giudici, adottando una linea di condotta caldamente raccomandata da Tindareo nell'Oreste di Euripide. Ma il rifiutarsi di difendere la causa della propria madre, per quanto malvagia essa fosse, era una colpa sufficiente, secondo l'antica legge, per scatenare la persecuzione delle Erinni. Questo mito, che ebbe vasta diffusione, dava grande risalto all'autorità della madre, attribuendole la facoltà di decidere ogni qualvolta sorgessero dispute tra i membri della famiglia. Pare dunque che i sacerdoti di Apollo e di Atena, figlia di Zeus, una dea che aveva tradito l'antico culto, cercassero di sopprimerlo. Essi riuscirono nel loro intento, diffondendo una versione secondo la quale Oreste uccideva Clitennestra con le proprie mani, anziché affidarla ai giudici, e poi veniva assolto dal più venerabile tribunale greco con l'aiuto di Zeus e grazie all'intervento personale di Apollo, che aveva pure incoraggiato Alcmeone ad assassinare sua madre Erifile. I sacerdoti si proponevano di invalidare una volta per tutte l'assioma che la maternità fosse più sacra della paternità. La versione ci presenta come un dato di fatto indiscutibile il matrimonio patrilocale e la discendenza patrilineare, e le Erinni vengono sconfitte. Elettra, che col suo nome Ambra ci ricorda il culto di Apollo Iperboreo, si oppone con successo a Crisotemi, il cui nome ci ricorda che, secondo l'antica religione, la legge matriarcale era aurea in molte parti della Grecia. Inoltre Crisotemi veniva considerata nobile e pia perché ossequente alla volontà materna, mentre Elettra è tutta per il padre, come Atena nata da Zeus. Inoltre le Erinni avevano sempre agito in favore della madre soltanto, ed Eschilo forza la tradizione quando parla delle Erinni incaricate di vendicare il sangue paterno. Molto audace poi la minaccia di Apollo che Oreste sarà colpito dalla lebbra se non ucciderà sua madre. Infriggere o curare la lebbra fu per lungo tempo prerogativa della bianca dea Leprea o Alfito. In seguito non tutte le Erinni accettano la volontà di Apollo Delfico ed Euripide placa il pubblico femminile facendo dire ai Dioscuri che gli ordini di Apollo erano poco saggi. Le molte versioni esistenti circa il luogo dove sarebbe avvenuto il riconoscimento dei due fratelli e gli stratagemmi seguiti da Oreste per uccidere Egisto e Clitennestra sono interessanti soltanto in quanto provano che i drammaturghi classici non si sentivano legati alla tradizione. Essi ci diedero una nuova versione di un mito antico, e sia Sofocle sia Euripide cercarono di far meglio di Eschilo, rendendo la trama più plausibile.